Son of a boy, I've been spending money all month, Daryl. Sta spingendo parecchio. cercare di bruciare, che non va a giocare, di cercare i pezzi. Lo sai che c'è un casino per quei pezzi, e non è reato. Tranquillo, già non bruciano un sacco. Quello è stato un caso, poi è stato. Qua già sta andando. È stato un caso lì. Ok, bene così. Adesso non che sono amico di ordinarmi i pezzi per i miei barattini, che ciò e lo devo stare a sventiare. 10 pezzi alla volta, qui sono 10, 20, 40. Spenderò 120 euro, non lo so, questo dove lavoro. Lo sai che ti due pezzi non te li mandano, quindi a un certo punto ti vedi alla meno 10. Adesso vediamo. Tipo 3.009 con 4.000 qualche FM500S alla 48, cosa del genere, faccio mandare i pezzi e poi vedo di mettermene da parte, altro non posso fare. Pezzi devo prendere, capito? Il discorso è quello, perché c'è un minimo, è come le bombole, capito? Se prendi un minimo di 10, la roba te la mandano, se ho 3 pezzi, lascia la cappella lì, a un certo punto, capito? Mi costa più in a mandarmi che altro. E quindi adesso vediamo un po'. Prendo solo quello che mi serve esclusivo per gli apparati che mi interessano, tipo FM500S, Midland, eccetera eccetera. Mi faccio una bacchetta con quei finali audio, finali di trasmissione e boom, e dopodiché si vedrà. Non per adesso, non sto parlando per adesso, sto parlando in seguito. Prima devo vedere un po' quanto mi viene e se mi conviene, il discorso è quello. Ti regalo la mia 27 anni, ma gli ho detto. E facciamo così, stasera, tanto che c'è il lineare, gli ho detto, te lo modifico. E facciamo la prova, se la brucio, ho detto, l'antenna è stata la mia, gli ho detto, cosa ti succede, non ti succede niente. Quanto è durata? 20 secondi è durata. Hai cominciato a scaldare, adesso vedevo questo fumo fuori. Oh, direttamente mollato, se no avrei bruciato l'apparecchio, figurati tu. Di 400 quell'antenna, va bene, capito? Massimo 3-400 watt li puoi dare, non di più. Se arrivi a 500 massimo arrivi a 20-30 secondi e la asciugli immediatamente e ti fa rientro in stazione, ti bruci il baracchino e cosa c'è, quindi a un certo punto non può venire nemmeno, meglio che se la prende il culo l'antenna. Ma dopo io più di qua potenza non tiro fuori, non vado forte. Adesso ho 20 watt, saranno per 30, no? Aspetta, fatto faccio. Sono 10 watt, allora 1, 2, 3 prova. 2, 3, con questo panico qua, con questo 2009 naturalmente. Modello vecchio, Quanto è di segnale che... come ha quel coso fa un po' di... 9,30. Ha aumentato 10 dB, hanno aumentato attaccato. Ma è poco, no? Cioè, va bene, a voglia, non ti va bene. Più così cosa vuoi, non caro, ci va quello. 10 dB sono 100 watt, così. Sì, però devi contare che 100 watt sono... più distante sei e più si vede la differenza. A Sassari purtroppo la differenza non la vedi, capito? Guarda anche 1000, non succede nulla, no. Più di quello non va, hai capito? Sì, 1000 watt sono 1000 watt, com'è? 1000 watt si intende? E a parte la luce, vabbè, comunque già se siete sì, quando arrivo a lei lo dice subito 1000 watt, 550 euro di luce. Oh, cazzo, sai che sto regolando? Allora, ora va bene, vediamo un po', 10-15 watt, dai, già andare. E già va bene, a voi, ci mancherebbe. No, così da 22 watt, da. No, 22 è così. Qua, la cosa mi battono così. 10 watt, basta. Anche 22 è il massimo. Sotto si incendia, già lo sai anche tu. No, è spento. Quando si riesce, esci con quelli che ti danno l'apparato. Gli altri diminuisci un pochettino, io con quello che ho dato a te, quello tappo lineare che ho bruciato io, mi fu 2001. Secondo te lo sto dicendo, hai capito? Ti ho dato 22 watt, ti ho dato. Mi dava 400 qualcosa, siccome era modificato. Dopodiché si sono incendiati, non lo so cosa cazzo si è incendiato, e l'ingresso è... E in pratica lineare ce l'ho buttato qua a casa, la verità, e ce l'hai visto, quello grosso. Per colpa mia, quindi non fare la cazzata che ho fatto io, di quel lineare di Olbia, lascia perdere, fatto male a fare una cosa del genere, quando avevo visto che non pilotava, avevo detto, beh, ti fa una cosa, prendi il lineare e gli lo porti al padrone, che io non lo voglio neanche sapere, invece l'ho preso e... con 22 watt mi dava 100, no, quasi 600 watt mi dava fuori. Dopodiché a un certo punto, sono capati i finali, ciao, buonanotte. Quindi adesso mi costa 20 euro la cucchia, sono 4 finali, quindi vieni tu. Bisogna fare attenti. No, vabbè, io adesso sto andando solo in parte dell'apparecchio. 87 è quello che hai modificato tu. Ti sto dando la potenza sua del baracchino, niente di più. Eccolo, già va bene, ha voglia. Adesso mi busco un bel lineare da 24 volts, un 7,50, tocco quello che c'è dentro e gliene metto in pratica, lo alimento con direttamente all'esterno, hai capito? Così con 7,50 sulla costa mi dà quasi 800 watt. Spenderò 500-600 euro, quelli che sono, però almeno c'è un bel lineare da stata ben fissa. Bello tranquillo, che pompa, come quello di Mario Mars, tale uguale, l'avevo modificato io. 800 watt, tonni tonni la tirava fuori, con cable. Il cable lo trattava con 10 e usciva 800 watt, tonni tonni tonni tonni tonni. Io me lo ricordo quando parlava lui qua, cazzo, si sentiva la comprensione, era fortissimo. E infatti per quello che ti sto dicendo, vabbè, era 80 quello, non era mica 140, ma comunque sia, vabbè, lo stesso. No, che io mi ricordo una cosa, che lui qua arriva forte, forte, forte, c'aveva un antennino, cazzo, mi entrava in tutti i canali. Lo so, se abitavo io di lì, e te lo ricordi che ho abitato quasi un anno a casa sua. Un giorno, siccome facciamo riparazioni di cacciatori, ci sono uscito con un amico e siamo andati a casa del santo. E lui arrivava tranquillamente a casa del santo 9:15. Si è lamentato, si è lamentato con CB vicino a casa sua, gli ha detto, dice, mi sei sfratellato, eccetera, eccetera, stacca lineare, e gli ho detto, se stacca lineare, gli ho detto, guarda, Mario, ho detto, col Kenwood, appena l'ha lasciato, non me la traga niente, mi ha detto, dice, che dicono gli altri, ha lasciato lineare, il coso, l'apparecchio, con 10 watt di pilotaggio e lineare, cazzo, arrivava a 9, quasi 9:10, 9:20 arrivava a mia casa santa, te lo sto dicendo io, l'ho visto io in macchina, non è che non l'abbia visto, l'ho visto io in macchina. Perché non me lo ricordo, capo, una volta quando modulava, che prima ti ricordo che ce l'avevo in macchina un po' di anni fa, ero sempre andando Santa Maria Covina, lui arrivava sempre, sempre, sempre arrivava, pure abbiamo perso dopo cosa, però è sempre, arrivava sempre, sempre. E appunto per quello arrivava in qualsiasi posto lui, vabbè, lui c'aveva il punto aperto e lì, quindi figurati, per quello che lo sentivi. Ha fatto un gruppo all'unità, ha fatto. E vabbè, ho avuto problemi che mi hanno fatto antenna, eccetera, eccetera, quindi ho avuto male tutto, se no, questo sarebbe stato, però sta quello modulando, il discorso è che ha abbandonato per quel motivo lì, capito? Dice che la sono, dice, ormai sono l'età che ci ho detto, dice, non voglia più di rompermi le balle, mi ha detto, con l'apparecchio, dice, l'apparecchio rimangono qua, e poi un domani dice, ci penserà mio figlio, mi ha detto, se vuole continuare, se no ci rivenderà, ha detto. Ci avrebbe voluto continuare, se ci avrebbe messo l'antenna. Sì, ha sparato a Natale, lascia perdere, ho sparato a Natale, ho sparato. Esatto. Vabbè, non lo dica. Dica, allora, ne aveva una che gli era durata un po' di anni, di antenna. Gli era durata un po' di anni. Gabriele, cosa c'è? Gli ha durato molto molto molto. Sì, quello sì, c'è tutto a posto, penso perlomeno, adesso non lo so, sono parecchio, non facendo a casa sua a scendere niente, lui questi giorni ci scendo e faccio visita, così almeno al limite di povero, quello che era. Allora quello non si vede, hai capito, una della canola pesca, quello che è. Ma tu non sarà mai la verticale. Insomma, se te la fanno, secondo me, cosa è meglio? La canola pesca o la verticale da 200 euro? Passare il cavo fuori perché dentro non vogliono più, quindi devono fare le tre discese, non è così facile, no, ci vogliono minimo 2 giorni per fare un impianto come si deve a lui, segnare ogni cavo un'antenna, perché lui ne ha 3 di antenne, c'è cioè quella della VHF, quella della 27, poi c'è un dipolo per un disco da 5. Una nave bordo, 2 bordo. E poi adesso vabbè 11.45 non usa più nessuno, comunque sia. Bastano 2 capi. Ma il cimitore io non l'ho mai visto. No, il cimitore non ne ha. C'è solo lui, c'è trasmettitore e basta. C'è solo un mercato, c'è di Saturnecco, poi c'è un 440, 430, un 140, allora me la, c'è anche la parecchia per la macchina, adesso non è che mi ricordo tutta la roba che ci aveva. Mi ricordo che ci aveva la Mantova 1, che gli era durato un po' di anni, mi ricordo, non so se gliel'avevano farata anche quella. No, c'ha la 1, c'ha la 5, c'ha la turbo, perché gliel'ho procurata io, quindi c'ha tutte e 3 pezzi c'è a casa sua. Allora che non si razza una. E cosa fai? Per fare l'antenna poi non viene attirata, la spara, non cazzo, devi andare ad attaccarla, ma sei scemo. Magari cazzo, quando vado a piazzare mi sparano a me, cazzo. Vai. Non rubare. Ehi, altro che non lo fanno, fregati, a futebini. Adesso vedremo cosa vuole decidere lui. Noi questi giorni ci passo e vediamo cosa vuole decidere lui. Sì, sono passati un bel dopo 2 anni, non sono passati puro. E cosa c'entra? Quando vedo il nuovo antenna, secondo te, piazzata, non gli viene in mente di sparare la casa. Uno è piazzare magari nei lipuri, non li vedi, oppure la canola a pesca. Sembra che non sia l'antenna e basta, hai capito? Ci mettono una chiamata. Sì, la Game Master, ma si vede lo stesso, non ti preoccupare. Una Game Master l'ho costruita. Ah, non serve a niente, cosa ne fai? Oh, lascia perdere. Non gli serve a nulla. Lui vuole arrivare fino a cosa, come se facciamo una volta a Oristano, a cosa, hai capito? Il discorso è quello, lui la metà sua è quella, lui è che gli metti un'antenna a canola pesca e fa tutto, solo sassare e basta, che non arriva a Oristano, va a comere, eccetera, eccetera, lui arrivava lì, te lo ricordi, era lui che riusciva un bel fronte, il discorso è quello. Negli anni che furono, da venire agli anni vostri. Era appunto per quello. A lui ricoveva lì, mette un traliccio, gira, piazzare un traliccio, 25 metri. Sta tranquillo che si è venuto un bel po' male a buttarglielo giù. Basta buscare un po' di americana, di quelle dismesse. Si sa per bene con la carrucola fatta tirare sopra l'antenna. Oh, oui. Andi che se le pare. Oh, oui. subito 2 minuti. Mi senti? Sono in camera da letto adesso. E a voi che ti sento? Abba, questa è la Lancento Plus. Sai che bene, a voi, ci mancherebbe. Abba, ti sento con la cassa, avevo preso tutto la volta. Vabbè, tranne questo che una volta ho preso uno, non c'ero fanato e fui. Ho comprato questa. Prima quella di dentro, poi questa qua. Cappa, si sente benissimo. Ciao, Julio, ti sento bene, ci mancherebbe. Poi io sento bene a te con la cassa. Anche qua ci ho messo la cassa. Meglio così, io sto usando le... Ecco matte che ho sistemato. Adesso devo sistemare quello che hai visto tu, che ti piace. Il mio letto, quello nero. Devo sistemare quello di microfono. Super cappa di segnale sempre lo stesso, sì sempre uguale. Cappa, già funziona bene questo. E a voi che funziona, è perfetto. Cappa moderno è questo qua. Dimmi, troppo entra, fammi la doccia, entro. Non ho bisogno. Ehi, vabbè, piano piano fai tutto, già lo sai. Non è che puoi fare la cosa di solo, già lo sai. Quindi, ormai ci devi convivere. Cosa vuoi fare? Dentro, entro un pochettino, entro a farmi la doccia, entro. Ce ne ho bisogno, c'è molto caldo oggi, mamma mia. Mi hai i numi. Cosa c'è, Gabriele? Io sono bambini piccoli, sono... si attaccano loro, capito? Quindi... fino alle 2-3 anni ce n'è da fare, anzi forse 5 anche, perché Giovanna fa che due testa con quello che c'ha, il nipote c'ha 5 anni, figurati. Non fa cosa scendere il capo, cos'è Monello? Monello è... c'è il carattere proprio strano, hai capito? È doppio strano, e cos'è il sangue di Sartoria? Che vuole comandare lui, vuole essere le cose lui, capito, eccetera, eccetera, quindi c'è il carattere così, beh, i bambini di 5 anni lo fanno, dopo 5 anni cominciano a cambiare, hai capito, cambia tutto, va lì all'asilo, sventia, eccetera, eccetera, incomincia a cambiare le cose, segue gli altri bambini, eccetera, eccetera, e piano piano, come si fa, no? Non è che all'asilo, cioè, dall'asilo al coso migliorino, sembrano cambi, ma non lo sono. Dopo che diventano più grandi, diventano più tediosi, non ti preoccupare. Sì. Carlo Zomanni si usa un altro sistema, si usa, che non comanda Edo, comando io, no Ed. Qua è bonga, cioè, se faccio una cosa del genere, Gabriele bonga a correre un poco. No, non è, no, non penso che si rubensia ne manco, no. Era bravo, Ciccino, adesso perché è piccolino. Non concentrarsi più mano per rispettare le mie regole. Non ne va dietro, cingomma. Sì, vabbè, sembra così, ma magari mi seguite anche le regole, anche tu già lo sai, se le impongono, quindi a un certo punto e vedere le cose come stanno, piano piano, pazienza, una volta che c'è pazienza, di fare lo educhi, eccetera, eccetera, com'è, e lui sta tranquillo che non ti fa nessun problema, il discorso è quello. No, già un bambino abbastanza bravo, già. Ah, ma vediamo quando cresce, quando è ancora più umano, detto, non voglio vedere queste cose strane che fanno i ragazzi di adesso. Se no, io sono garantica, ma non ne voglio vedere cose strane, perché è molto severo su queste cose qua. Edu si deve comportare bene quando è grande, se no all'antica esiste in farebbe da culo me. Ehi, vabbè, all'antica sì, il discorso è quello. Te lo so anch'io quello, ci sono passato anch'io, non ti preoccupare. Con babbo e con mamma, quindi a un certo punto. Poi, il discorso è quello. Però grazie a Dio ti ha fatto un uomo, ti ha fatto grazie a quegli insegnamenti, cioè che si è andato a lavorare, si è avuto una casetta, ha avuto questo, ha avuto quest'altro, grazie a Dio. Hanno cercato di farti studiare con gli insegnamenti che si davano. E anch'io per questo ho fatto la scuola, da tecnico, anche se adesso non mi è servito un cazzo, incontrando come stanno le cose non conviene più. Adesso conviene chiudere tutto e va a far culo, a un certo punto. Non puoi andare a chiedere, per fare riparazioni di 200 pezzi alla volta o 50, capito? Però non mi va, non mi va in nulla. Se ripari un televisore al giorno pure troppo, oppure un baracchino al giorno anche troppo. Non è come prima negli anni 80 che riparavi 20 alla volta. Allora il consumo c'era, adesso purtroppo non c'è più niente. Adesso c'è un motorio, hai capito? Non ordina più niente a nessuno e quindi ti deve arrangiare, ti ha detto, dice, se vuoi pezzo, dice, ti devo dire, dici la pezzo, cazzo dice la pezzo, a te sembra cazzo, è normale, detto che io mi faccio un baracchino una volta all'anno e mi ordino 50 euro di pezzi, gli ho detto, vai, gli ho detto, lascia perdere, gli ho detto. Comunque io l'ho trovato, tre pezzi ne ho trovato. Meglio così, sono contento. Tieniti da parte, non buttarceli, tieniti tutto, hai capito? Ti tieni tutto, gli apparecchi, quelli che sono, display, alimentatore, chi sono di malità. Stacchiamo solo l'integrato che serve e basta. Poi i finali, lasciali dove sono, non li staccare per niente. Guarda, nel caso succederà, ma speriamo mai più una cosa del genere lì, non fai altro che staccare il filare da quello e passare all'altro, boh, almeno non spendi niente. Ma hai capito, quei Capaian, tre pezzi 6 euro l'ho visto su un sito che mi hanno fatto vedere. Ah, vabbè, io pensavo che avevi trovato degli apparecchi in pratica da buttare. Se sono troppi sero, chiedete da parte, tanto servono sempre quelli. Io lo dovrei ordinare, adesso. Prima sto chiedendo un po' di gente, se non riesco a beccarlo dovrei. Cioè, è proprio l'opzione che me lo ordino e me li faccio arrivare. Ah, vabbè, ma qualcuno ce l'ha da qualche baracchino da buttare, non ti preoccupare, cazzo, ce ne sono, sa, se i cibi che non c'hanno più baracchini buttati, cazzo, è roba del genere. Solo che non te ne vogliono dare, capito? Vogliono soldi a un certo punto. Vogliono guadagnare la mondezza, quindi no, non si guadagna la mondezza, il discorso è quello. Se io l'avevo messo, vabbè, 4 mesi fa, c'è con apparecchi, attrezzi eccetera eccetera, chiunque sia aperto possibile a potermi inviare eccetera eccetera, non mi ha risposto manco un cane, hai capito? Se avrebbe detto invece, scritto magari invece, pago apparati a seconda mano e non funziona, cosa del genere, io cosa adesso magari non funziona il cappaio eccetera eccetera, sono con la mondezza, il discorso è quello lì. Mi avevo subito scritto in 50-60 persone, perché sono diventati cari morti ormai. Sembra di essere, cosa ti posso dire, alla ai vaccini, hai capito? Sembra di essere all'era dei vaccini, che prima ti incolavano, ti vendevano di tutto, ti vendevano, cazzo, anche il biglietto per andare cazzo, a fare la spesa al supermercato. Fanno schifo, fanno oramai, no, non c'è più, cioè, c'è qualcheduno che te lo dà proprio così perché ti conosce magari e cosa, però devi essere sempre riconoscente. Alla pipina adesso aspetto un po', se ci riuscirà a farmi un biglio me lo faccio arrivare tramite un amico e via, lo chiedo a cosa mi fa arrivare, se è possibile, e mi fa arrivare quei 3 pezzi, vabbè, gli altri si conserveranno. E dato che ci sei, che c'è con l'apparecchio, ti fa arrivare l'integrato audio, i finali di trasmissione, tutti e due, dato che ci sei. Poi il resto è una cazzata, è quello che conta, sono i finali di trasmissione e il finale audio. Boh, basta, non ti interessa altro. Fatti arrivare con la roba lì e te la tieni da parte. Nel caso ti dovesse servire un domani, eccetera, eccetera, parliamo di 10, 20 anni dopo, eccetera, eccetera, non fai altro che cambiarli. Ci metti due girare soli e non c'è nessun problema, capito? Poi i condensatori già si trovano, ancora, perlomeno. Perché ormai stanno facendo tutto microprocessori, il discorso è quello lì. I condensatori ancora non li hanno cambiati. Sono più piccoli ma sono originali. Hai capito? Il discorso è quello lì. Poi attaccarli è un casino. È un casino perché ci vogliono... ci vuole il disanatore, il salatore d'aria, eccetera eccetera, un tipo di... come ti posso dire, come si chiama? Un tipo di saldante diverso da quello che hanno adesso, per quei circuiti, capito? Quindi praticamente glielo passi sopra col pennellino e si stacca il pezzo. In 3-4 minuti come li passi il phon, hai capito? Perché se dovessi passare il phon, come si chiama? In quelli di malattini adesso, si scioglie tutto e ci butti tutto, ci butti. Questi baracchini adesso sono fatti diversamente, sono fatti usa e getta, secondo me. Sì, usa e getta sono infatti, come fai a ripararlo, no? Ma te ne vanno mai quei pezzi, non sono l'altro, non ce n'è, pezzi non ce n'è, è inutile stare a... come vede, comprarlo nuovo e va a un culo, a un certo punto. Io c'ho un V e U buttato a casa, per come ti vuoi, perché ci vuole un transistor, il transistor vado ci vuole, è piccolino e quindi non si trova, a un certo punto cosa devo fare? A me lo invento, non credo. Guarda che questo è un peccato che non ha lo smitter, se no Gizu, anche se è piccolo, sai quanto funziona bene. Beh, vabbè, già lo so, già funziona bene, così è vero. Ma dice che questi nuovi che stanno uscendo funzionano, sono già tarati così, cioè la modulazione esce bene e basta. Non bisogna fare nessuna modifica. mi hanno detto, gli ultimi della Midland. No, io non ci credo comunque, non ci credo. Pure stanno dicendo così molti. E tutto va bene, c'è un coso, c'è un eco che sta vendendo 170 euro, figurati tu. Ma lo stavo per comprare, ma oggi. Dopodiché ho cambiato cosa, perché a me mi interessa peccato lo scooter, non mi interessa il baracchino. Cioè con il baracchino non faccio un cazzo, ma con lo scooter sì. Cosa farmi la spesa, quindi a un certo punto non me ne frega niente. Adesso prendo i pezzi di questo scooter qui, lo ordino, la centralina, e sono a posto. E me lo esco, entro, vado dove voglio e sono tranquillo. Certo che ti vuoi mettere il baracchino. Certo che si può mettere il baracchino, a voglia. Papà. E fa la modifica. Piazzere uno piccolino basta metterlo. Oh, di quelli a modello vecchio, Enrico 50-10, adesso mi ricordo, quelli vecchi, piccolini, fini, mi. Ah, voglio basta, avanza. Se me lo rubano, se la via in culo, non è che mi stanno facendo un danno, no, cazzo. Se posso portare via l'apparecchio, basta, se portare via l'antenna. Ah boh, e non vedi la cantina tu? Sì, io ce l'ho la cantina, ma quando vai fuori, secondo te, a un certo punto, cosa vuoi fare? È un casino, capito? Ma se vai magari a un circolo, ti invitano a una birra, 5 minuti, eccetera, eccetera, esci fuori, non trovi né quello, tanto meno il baracchino, quindi magari per lì. Adesso devo fare la modifica per poter fare il blocco, per non poter farla, per non poter far utilizzare la, in pratica lo scooter, capito? Guarda che se ci sono questi allarmi che come tu vai a toccare la cosa scatta, se sei dentro un circolo, come tu vai a toccare, fammi di casino, come tu vai a toccare il dentro. Ma non c'è niente, fregatene. Meglio dare col dragone fuori, fregatene. Ti faccio un blocco in pratica della ruota di dietro con lucchetto, in modo che lui non si possa muovere, non ti preoccupare. Dopodiché esco fuori io, esco con dragone e gli taglio la testa. E te anche su, guarda, mi ha aperto lo squash. Anche la notte, cioè, ti ho dato un girito, non si sente più. Mi hanno detto che l'hanno sentito su canali alti. 465 la frequenza è che lui parla, ne è 45. 45? Sì, 45 su, quindi 465 la frequenza. E cosa ci fa in quel canale? È chiamata internazionale, quello, già lo sai. Come il canale 7 in TMR. Ma se tu accendi il TMR, c'è un sacco di gente che parla di TMR, è pieno. Fanno di ex, c'è chi esce cazzo con la macchina, c'è chi esce con coso, e si divertono, capito? Fanno i collegamenti da Trentino a coso, basta guardare oggi, nel sito delle mattoni, c'è una cosa subito. In primavera si stanno divertendo, meglio della 27 la verità. Davvero? Davvero, non sto scherzando. Che affa? Me lo voglio prendere qualche apparecchio buono. Certo, una luna è dalla... Aspetta. Si mettono 80 km, 80, adesso non lo ricordo. In pratica. Quello ha usato un Vetivis, lo sai. C'è un... Vetivis come apparecchio TMR per i collegamenti a distanza. Adesso sto motore va 4.23 e cosa me ne voce, a me non faccio niente. No, non c'è altro vado adesso. Comunque sia. Lo sto dicendo a sé. Beh, con un gommino fa un sacco di quasi 800 km fa, figurati. Avevo visto uno di quegli apparecchi così, cavolo, ho visto che qualcuno c'ha l'antenna anche sul corpo, sul tetto. C'è sempre che c'è la direttiva, qui dice i menti addirittura. Cioè, ci sono tutti organizzati in PMR, non ti preoccupare. Per parlare. Noi ci siamo noi in Sardegna, la verità. Che poi se vogliamo Sassari, Corsica, ci abbiamo di fronte, già lo sai anche tu. Ma il fatto che puntare l'antenna e parlare con la Corsica, su canale 10. Mi hanno detto che mi sentono in Corsica ogni tanto, un amico. Appunto per quello. Io adesso, vabbè, sono in direttiva puntata a Monteoro, però se tolgo la mia 27L e ci metto la nuova, quella che c'avevo prima, che pure dico adesso, con quella pallotta, quella vale con la Francia, con la X300. Quanto è andato nel coso? Ma non è meglio qua, che è molto migliore. Vabbè, ognuno la vede come la vede. Lo so, ma è anche bello parlare di me, la verità. C'è più gusto. Perché vai, non c'è deliera, non c'è niente, sei in diretta, hai capito? Il discorso è quello lì. Io c'avevo un G7 della Midland, cazzo, non mi ricordo dove ce l'ho messo, cioè la PMR e l'EPD c'aveva. Tu immaginate che io stamattina sono andato a fare con un amico, ti porto anche a te, ti porto. Sono andato a pigliarmi lui si è aperto un G6 e io mi sono preso una cappa, tutti e tre ci avevano il coso, l'8, ma Frank, hai capito? Quindi, vedi tu, tutti lo usano ormai, il PMR, dentro come si chiama, agli stadi, dentro alla... ma in tre sono, usano quello lì, usano. Gabriele, ce l'avevo avuto anche io, ce l'ho avuto, addirittura modificato pure quello lì. Era di babbo, era. Figurati. No, io ne ho 4 di quelli. I 2 di Giovanna ne ho 6. Quindi a voglia di PMR. Ma io non ci sono più entrato, no? Io già entro qualche volta, ma non sempre, comunque sia. Però mi diverte, cazzo, lanciarmelo e cercare le persone, cazzo, che parlano di... È da un bel tempo, che non lo uso più, è da molto, molto, molto tempo. Ma con l'antenna in gomma non è che andi assai lontano, no? Se metti un'antenna sul tetto allora è diverso. Niente che te l'ha detto, quando mi sono lontano l'antenna in gomma. Puoi scommettere che se ti piace l'antenna in gomma a casa tua arrivi fino a Pallottone. Andate nel gomma nel portatile, non penso uno proprio che arrivi a Pallottone. No, no, sono andato fuori, con la caffetta. Ah, e allora è diversa la storia. Sto parlando di due cose diverse, stiamo parlando, Certo, io l'altra volta parlo qui, tranquillo, a voglia. Certo. Se mettiamo una cosa fuori può darsi che vada un po' di più. Però dentro casa, cioè, un attendino in gomma dentro casa non anda a lungo. Sì, già va, che per fare. Io da qua parlo tranquillamente a cosa, a proprio a sicuro di tutto. Futuro, ragazzi. Che cosa, la chiesa di quella famosa dell'estate. Andiamo lì, fondo scala io. Sono andato con Marco in macchina sua, con la terra in gomma sua, io... con gommino mio 9-10, perfetto. Chiappa. Adesso vediamo di mettere un qualcosa. Gabriele, si va a scena, sì, con le coccole mie. Tu figurati, cazzo, a un certo punto. Ma lavoro che fai? Se ti metti il PMR, vai benissimo. Meglio la 27, la verità. Nelle... non ti posso dire. Una magnetica e poi un'altra stazione fissa lì a Corso. Dove sei tu adesso? Cioè dove lavora lui adesso? Non costa niente. Una X300, va bene anche. La verità la volevo mettere, ma poi a stare a passare altri capi, altre cose. Ho detto, ma va, lascia perdere. Volevo mettere andare sul tetto proprio. Ma proprio il PMR, basta fare una prova, non ci vuole molto per fare una prova. Basta avere una X300 e un portatile e tu vedrai fino dove arrivi. Non lo so, già lo so. Io sto pensando di fare una calata e metterla direttamente sul tetto, un'antenna che spara. Ma poi ho detto, ma chi me lo fa fare? Cosa vuoi dire? Non lo so. So che imbatte di più in quelle frequenze. E l'antenna è molto più piccola della 27. Sì, esatto. È molto più piccolina della 27 MHz. La 27 MHz invece ha proprio bisogno, non c'è nulla da fare. Ne ho provato tante altre da balcone, l'unica che mi ha funzionato è l'aveva messo un roccio di cobro, no, non uscia nulla, babbo andava ma in zona, ma poi fuori non senti più niente. L'unica che un pochettino andava è quella, come si chiama, la boom, era quella grande. Boh, gli altri fa tutte cagare. Un secondo, un attimino. Vabbè, entra a farmi la doccia, da. Ok, va bene. D'accordo. Chicos, chi c'è qua? Hola chicos, chi è avanti? Sul canale 10, avanti. Ah, tu. Ehi, buonasera. Sarà anche a lei. E allora? cosa ci racconti? Sono un pochettino coricato, ero stanco, troppo mi prepara a mangiare, ma voi aveva ancora il chizzo. A me lo mangiamo tutti e due, vero Gabriele? Mangiava papà anche lui. Ma stanco sì? Un po' sì, sono stanco sì. Mi si sono bucato tanto, non mi viene da arrivare. E domani c'è una mezza giornata di lavoro. Ah, l'importante è che ci sia il lavoro, dai. Quello è importante. Papà, mi tengono il bambino, mi tengono, vado a lavorare. E mi ho fatto un paio di giorni anche in pizzeria, mi ho fatto a porta pizze. Ehi, tutto fare. Ah, beh, tutto fare. Ovviamente se c'ho bisogno, già lo sai. Già lo so, sì. Ho fatto un paio di lì, porta pizze. Adesso lui poi è andato, ci sarà un nuovo proprietario che ogni tanto mi chiamerà, perché lui aveva finito, ogni tanto mi chiamava, lui no, la pizzeria l'ha chiusa dall'altro giorno, da domenica ha finito col coso. Adesso vediamo se un altro proprietario mi chiama a portare le pizze. Le porti alte che ci sei tanto altro. E già la telepazia già. Già, a secondo dei giorni già c'era il tanto. Meglio così allora. Non bisogna lasciare perdere nulla, no. Bisogna andare quando c'è e basta, c'è poco da fare. Ma è bambino che te lo chiede quando fai a lavorare. E cognato. O se no quando capita che è mia sorella. Ah, allora c'è qualcuno, è meglio così, Già c'hai l'appoggio, dai. È già una cosa buona quello lì. Sì, poi forse se devo andare a travagliare. Quando c'è bisogna andare subito, come? Perché già lo sai, in casa ci vogliono sempre soldi, non devono mancare mai. Qua se mancano siamo finiti. Mi devono imbrodato di Naino, che sempre comparendo il socco, mamma mia. Aveva un po' di manco di prima, ma sto sempre comprando. È quello, avevo guidato. E c'è riuscito un bel zocco, mi è uscito di ruzzi. Cioè, 100 e passa euro, 146 euro di ruzzi. Non ne posso più, no. L'importante sono cose che prendi, che necessità in casa, capito? Quello vuol dire molto, almeno c'hai qualcosa che ti serve, ecco, tutto lì. Di roba mia non ne sono comparendo quasi nulla di roba che piazza a me, sono comparendo roba a mania, roba